ciò che per disgrazia in quel momento ignoravo e che scoprì soltanto più di 2 anni dopo era che fra i clienti del nostro chauffeur c'era il signor di Charlus e che Morel, il quale incaricato di pagarlo, teneva per sé una parte del denaro, facendo triplicare e quintuplicare dall'autista il numero dei chilometri, aveva stretto forti legami con lui, pur affettando di non conoscerlo davanti alla gente, e usava la sua vettura per lunghi spostamenti. Se mi fosse stato noto tutto questo, e anche che da lì, forse senza che nemmeno lo sapessero, veniva la fiducia riposta poi da Verdurin, proprio in quell'autista, molti dispiaceri della mia vita a Parigi nell'anno che seguì, molte sciagure relative ad Albertine sarebbero stati evitati, ma non ne avevo alcun sospetto. In sé, le passeggiate in auto di Charlus con Morel non avevano per me alcun diretto interesse. Il più delle volte, del resto, esse si limitavano a una colazione o a un pranzo in un ristorante della costa, dove Charlus passava per un vecchio domestico in pessime acque e Morel, incaricato di pagare il conto, per un gentiluomo eccessivamente generoso. Racconterò uno di quei pasti che potrà dare un'idea di come si svolgessero anche gli altri. Il ristorante, di forma oblunga, era a Saint-Mars-le-Vieux. «Non si potrebbe togliere questa roba?» chiese il signor di Charlus a Morel, come a un intermediario, per non rivolgersi direttamente ai camerieri. Con questa roba designava 3 rose appassite che un maître, ben intenzionato, aveva collocato come decorazione sulla tavola. «Beh, sì», disse Morel imbarazzato. «Non vi piacciono le rose?» «Dimostrerei piuttosto con la suddetta richiesta che mi piacciono, dal momento che rose qui non ce ne sono». Morel parve sorpreso. «Ma in realtà non mi piacciono molto. Sono abbastanza sensibile ai nomi. E se una rosa è appena un po' bella, si scopre che si chiama Baronessa di Rothschild o Marescialla Neil, il che è agghiacciante. Amate i nomi? Avete trovato dei bei titoli per i vostri branetti da concerto? Ce n'è uno che si chiama Poema triste». «È spaventoso», commentò il signor di Charlus, con una voce acuta e sonora come uno schiaffo. «Ma avevo chiesto dello champagne?» disse al maître, che aveva pensato di portarne e posava accanto ai 2 clienti 2 coppe colme di vino spumante. «Ma, signore, portate via questo orrore che non ha alcun rapporto con il peggior champagne. È l'emetico chiamato Cap, dove generalmente si lasciano a bagno 3 fragole marce in un miscuglio d'aceto ed acqua di Seltz. Già», continuò rivolgendosi a Morel, «sembra che voi ignoriate cosa sia un titolo. E anche nelle vostre migliori interpretazioni si direbbe che non cogliate il lato medianico della cosa». «Voi dite?» chiese Morel, che non avendo capito assolutamente nulla delle parole del barone, temeva d'essere privato di un'informazione utile quale, per esempio, un invito a colazione. Poiché Charlus non si curò di considerare «voi dite?» alla stregua d'una domanda, Morel, che di conseguenza non aveva ottenuto risposta, ritenne di dover cambiare discorso dandogli una piega sensuale. «Ecco, vedete la biondina che vende quei fiori che non vi piacciono? Anche lei sicuramente ha un'amichetta. E la vecchia che pranza al tavolo là in fondo anche. Ma come fai a sapere tutte queste cose?» chiese Charlus, stupito della prescienza di Morel. «Le intuisco immediatamente. Se passeggiassimo insieme in una folla, vedreste che non mi sbaglio mai più di una volta». E chi in quel momento avesse osservato Morel, con quell'aria da fanciulla nel bel mezzo della sua maschia prestanza, avrebbe capito l'oscura divinazione che lo designava a certe donne non meno di queste a lui. Aspirava a soppiantare Jupien, vagamente desideroso d'aggiungere al suo fisso le somme che, secondo le sue supposizioni, il farsettaio ricavava dal barone. «Quanto ai gigolò me ne intendo ancora di più. Vi eviterei qualsiasi errore. Presto ci sarà la fiera di Balbec, lì potremo pescare allegramente e a Parigi poi avreste di che divertirvi. Ma un'ereditaria prudenza da domestico gli fece dare un altro giro alla frase già cominciata. Così Charlot ebbe l'impressione che si trattasse ancora di fanciulle. «Sapete», riprese Morel, intenzionato a eccitare in un modo che riteneva meno compromettente per la propria persona, benché fosse in realtà più immorale, i sensi del barone, «il mio sogno sarebbe di trovare una fanciulla molto pura, farla innamorare di me e toglierle la verginità». Charlot non poté trattenersi dal pizzicare teneramente l'orecchio di Morel, ma aggiunse ingenuamente: «A cosa ti servirebbe? Se la privassi della sua verginità, saresti obbligato a sposarla». «Sposarla?» esclamò Morel, che credeva il barone già ebbro e non pensava con quale uomo, tutto sommato più scrupoloso di quanto lui supponesse, stava parlando. «Sposarla? Un accidente! Glielo prometterei! Ma una volta portata a buon fine la piccola operazione, la pianterei la sera stessa». Charlot aveva la tendenza, quando una fantasia gli procurava un momentaneo piacere sensuale, a darle la propria adesione, salvo ritirarla del tutto pochi attimi dopo, quando il piacere si fosse esaurito. «Davvero lo faresti?» chiese Morel, ridendo e stringendolo più da presso. «E come?» rispose Morel, nel vedere che non riusciva sgradito al barone, continuando a spiegargli sinceramente quello che in effetti era un suo desiderio. «È pericoloso», disse Charlot. «Farei le valigie in anticipo e me la batterei senza lasciare indirizzo». «E io?» chiese Charlot. «Vi porterei con me, si capisce», s'affrettò a rispondere Morel, il quale non aveva minimamente pensato alla sorte del barone, che era l'ultima delle sue preoccupazioni. «Ecco, c'è una piccina che mi piacerebbe molto per questo, una sartina che ha bottega nel palazzo del signor Duca, la figlia di Jupien!» esclamò il barone, mentre sopraggiungeva il sommelier. «Ah, questo mai!» aggiunse, sia che la presenza d'un terzo l'avesse raffreddato, sia che, persino in quelle specie di messe nere durante le quali si compiaceva di insozzare le cose più sante, non potesse risolversi a far entrare persone amiche. «Jupien è un brav'uomo. La piccina è incantevole. Sarebbe orribile dare loro dei dispiaceri». Morel sentì d'essersi spinto troppo in là e tacque, ma il suo sguardo continuava nel vuoto a fissarsi sulla fanciulla alla cui presenza aveva voluto un giorno che io lo chiamassi caro artista e alla quale aveva ordinato un gilet. Grande lavoratrice, la piccola non s'era concessa vacanze, ma ho saputo poi che, mentre il violinista si trovava nei dintorni di Balbec, lei non aveva smesso di pensare a suo bel viso, nobilitato dal fatto che, avendo visto Morel in mia compagnia, l'aveva creduto un signore. «Non ho mai sentito suonare Chopin», disse il barone, «eppure avrei potuto. Andavo a lezione da stamattina, ma lui mi proibì d'andare a sentire in casa di mia zia Chimay il maestro dei notturni». «Che imperdonabile sciocchezza!» esclamò Morel. «Al contrario», replicò vivacemente, con voce acuta, il signor di Charlot. «Fu da parte sua una prova d'intelligenza. Aveva capito che ero un temperamento e che avrei subito l'influenza di Chopin. Non ha importanza, visto che ho abbandonato la musica giovanissimo, come tutto del resto. E poi si può sempre immaginare», aggiunse con voce nasale, lenta e strascicata. «C'è sempre qualcuno che ha sentito, che può darvene un'idea. Del resto Chopin era solo un pretesto per tornare al lato medianico che voi trascurate». Si sarà notato che, dopo un'interpolazione di linguaggio volgare, quello del signor di Charlot era bruscamente ridiventato prezioso e altero, qual era d'abitudine. In effetti, l'idea di Morel intenzionato a piantare senza rimorsi una fanciulla violata gli aveva fatto gustare di colpo un piacere completo. Da quel momento, appagati per qualche tempo i suoi sensi, il sadico, questo sì davvero medianico, che s'era sostituito per qualche istante a lui, era scomparso, ridando la parola al vero signor di Charlieu, pieno di raffinatezza artistica, di sensibilità, di bontà. L'altro giorno avete eseguito la trascrizione per piano del quartetto numero 15, cosa già assurda di per sé, visto che non c'è nulla di meno pianistico. È fatta per coloro cui le corde troppo tese del grande sordo fanno male alle orecchie. Ora, quel che è divino è proprio quel misticismo quasi stridulo. In ogni caso, l'avete eseguito malissimo, alterando tutti i tempi. Bisogna suonarlo come se lo si stesse componendo. Il giovane Morel, affetto da sordità momentanea e da un genio inesistente, rimane immobile per un istante, poi, preso dal sacro delirio, suona, compone le prime battute. A questo punto, spossato dallo sforzo di immedesimazione, s'accascia, lasciando spiovere la sua bella ciocca per piacere a Madame Verduran, e così intanto al tempo di ricostituire la prodigiosa quantità di sostanza grigia prelevata per l'obiettivazione pitica. Dopodiché, recuperate le forze, travolto da un'ispirazione nuova e sovreminente, si slancia verso la sublime, inesauribile frase che il virtuoso berlinese, pensiamo che il signor di Charlieu alludesse così a Mendelssohn, doveva instancabilmente imitare. E in questo modo, l'unico davvero trascendente e vivificante che vi farò suonare a Parigi. Quando il signor di Charlieu gli dava consigli del genere, Morel era molto più spaventato che nel vedere il maître portarsi via le sue rose e il suo cap tanto disprezzati, perché si chiedeva con ansia quale impressione avrebbe fatto a quelli del corso. Ma non poteva indugiare in tali riflessioni, dato che il signor di Charlieu gli diceva imperiosamente: «Chiedete al maître se ha qualche buon cristiano». «Buon cristiano? Non capisco». «Vedete bene che siamo alla frutta, è una pera. State certo che Madame de Cambremer ne ha, giacché la contessa d'Escarbagnat, cioè lei, ne aveva». Il signor Thibaudier gliene fa omaggio e lei dice: «Ecco, un buon cristiano che è davvero bello». «No, non lo sapevo. Da quel che vedo, d'altronde non sapete niente. Se non avete neanche letto Molière...» «Ebbene, poiché sembra che non siate più capace d'ordinare che di fare altre cose, chiedete, molto semplicemente, una pera che si raccoglie proprio da queste parti. La buona Luisa d'Avranches». «La? Lasciate stare. Visto che siete così maldestro, ne ordinerò io stesso qualche altra che preferisco. Maître, avete una decana dei comizi?» «Charlie, dovreste leggere l'incantevole pagina che la duchessa Émilie de Clermont-Tonnerre ha dedicato a questa pera». «No, signore, non ne ho». «Trionfo di Jodoigne?» «No, signore». «Virginia Baltet? Pascolmar?» «No». «E allora, dal momento che non avete nulla, ce ne andremo». «La duchessa d'Angoulême non è ancora matura. Venite, Charlie, andiamocene». Disgraziatamente per il signor di Charlieu, la sua mancanza di buonsenso, forse la probabile castità dei suoi rapporti con Morel, fecero sì che, a partire da allora, egli si ingegnasse di colmare il violinista di singolari attenzioni che questi non poteva capire e cui la sua natura, folle nel suo genere, ma ingrata e meschina, non poteva rispondere che con una freddezza o una violenza sempre maggiori, che gettavano Charlieu, un tempo così fiero, adesso tutto timido, in accessi di vera disperazione. Si vedrà come fin nelle minime cose Morel, convinto d'essere diventato uno Charlieu mille volte più importante, avesse frainteso, prendendoli alla lettera, gli orgogliosi insegnamenti del barone riguardo all'aristocrazia. Limitiamoci a dire per ora, mentre Albertine mi aspetta a Saint-Jean-de-la-Haize, che se Morel metteva qualcosa al di sopra della nobiltà e la cosa era di per sé abbastanza nobile, soprattutto da parte di uno il cui piacere consisteva nell'andare in cerca di ragazzine alla chetichella in compagnia dell'autista, era la sua reputazione artistica. e quel che potevano pensare al corso di violino. Era brutto, certo, che sentendo Charlot in sua completa balia, affettasse di rinnegarlo, di farsi beffe di lui, con la stessa spregiudicatezza con cui, non appena gli ebbi promesso di mantenere il segreto circa le funzioni di suo padre in casa del mio prozio, mi trattò dall'alto in basso. Ma d'altra parte, il suo nome d'artista diplomato sembrava a Morel superiore a qualsiasi nome. E quando Charlot, nei suoi sogni di tenerezza platonica, voleva fargli assumere un titolo della sua famiglia, lui rifiutava energicamente.